L'estate che asciuga il verde dei tralci, scuote i cardini nei muri cintati di siepi dritte, frucianti dall'oro a portata di vento. Nel chiarore, l'erba sbiadita biancheggia sui bordi dei prati, poi torna a disfarsi scura, terra da solcare, rivoltare o polvere, perenne escrescenza di sassi o selva in cui serpeggia il filo della falce sempre uguale.